Paola, fino a dove possono spingersi? Questo dipende dalle loro zone. Cioè, io non credo ci siano assolutamente regole. Questa è una cosa che ognuno deve sperimentare nel proprio luogo, assolutamente. Noi siamo in una zona estremamente avvantaggiata, tant'è che nel nostro sito, sin dai tempi dell'autocertificazione iniziale con Veronelli, scrivemmo che noi utilizzavamo 400 grammi di rame metallo a ettaro annui, cioè in quell'epoca, sì, in quell'epoca era possibile. Ora, negli ultimi 3 anni, 4 anzi, siamo arrivati a 1,2 kg fino a 1,5 kg. Però nel 2008, di cui è presente il vino ora, noi abbiamo avuto danni da peronospora all'incirca sul 70% dell'uva. Cioè, noi abbiamo fatto una produzione veramente... Però c'è da dire che la provincia ha dato contributi anche a chi faceva il sistemico, cioè i danni da peronospora l'abbiamo avuta a noi come chi ha fatto il sistemico. Quindi penso che si possa utilizzare rame zolfo tranquillamente, però diciamo i dosaggi, i tempi, questo ognuno li deve vedere la sua zona. Mm-hmm. Sì. E annata dopo annata. Quest'anno sicuramente si sono fatti pochissimi trattamenti, però poi alla fine ci ha fatto soffrire parecchio, vero? Ecco, quindi non è così. Questa annata è stata un po' così. Dici qualcosa in più su questo vino che abbiamo qui? Noi avevamo... Cioè sulla sua vigna più che sì, altro. Noi avevamo la vecchia vigna che aveva circa, era del 67. Quest'anno abbiamo estirpato ne è rimasta ancora circa un ettaro, ma 2,5 ettari sono andati via già. Questo vino è in parte della vecchia vigna e in parte della nuova vigna. La nuova vigna è stata impiantata 15 anni fa, per noi è una creaturina proprio, e abbiamo impiantato gli stessi identici vitigni che c'erano un tempo, cioè Sangiovese al 90%, poi abbiamo impiantato Malvasia Nera, Ciliegiolo, Foglia Tonda e Mazzese. Allora, quello che però vorrei un attimino una volta chiarire, perché chi parla di Chianti molto spesso pensa al vecchio Chianti. Allora, uno, nel disciplinare non ci sono proprio più le uve bianche. Due, il vecchio Chianti era fatto con un principio che era ogni filare aveva all'interno tutti i vitigni nella proporzione dovuta. Cioè c'era il 10% di uve bianche, il 10% di Canaiolo, Malvasia Nera, eccetera, e l'80% di Sangiovese. Siccome erano mescolati in ogni filare e la vendemmia si faceva una tutta insieme, c'era un miscuglio di uve che avevano una maturazione, un pH completamente diverse fra loro. Il mélange di questi livelli diversi di maturazioni e di vitigni dava il Chianti. Oggi non è più così, nessuno impianta più un vigneto in questo modo, perché si va a fare tutto Sangiovese, tutta Malvasia Nera, e si prende ogni volta il vitigno al suo massimo giusto livello di maturazione. Quindi il Chianti, quello di un tempo, dimenticatevelo, non esiste più. Questo vino è il mélange dei due, cioè in parte c'è il vecchio vigneto, però non ci sono le uve bianche, e in parte è il nuovo vigneto. Quindi è un Chianti superiore di bella tono, diciamo, è un vino che ci rappresenta abbastanza. Quello che, diciamo, l'arco iris ha come caratteristica è una tannicità particolarmente spiccata, legata forse anche a questo non concimare in nessun modo, che chiaramente mette le piante in una certa condizione, cioè le piante devono tirare fuori sforzare. Da sé. Si devono sforzare. Quindi i nostri vini non sono filtrati, non sono chiarificati, non c'è addizione né di gomma arabica né di nessun altro maquillage, c'è delle solforose bassissime. Noi lavoriamo tra 19 mg litro totale fino a 37-47 di totale. E quando è per esempio il massimo di per il biologico? È 100. Ecco. No, per con darsi deroga un ordine, fino perché, a 140. Perché sennò uno non ha idea, no? Quindi diciamo il massimo c'è una deroga fino a 140, voi quanto, ripeti? Al massimo arriviamo a 47, ma proprio alla messa in bottiglia. Voi? Di cui una... È la stessa cosa più o meno, Eris? Più o meno stessa cosa. No, per capirci, perché tante volte uno dice appunto un vino biologico, magari c'è 140 di solforosa, loro, cioè per dire, Daniele non ha la certificazione biologica e neanche Eris, no? Paola ce l'ha, vabbè, però insomma per dire che tante volte non significa niente. Nulla, assolutamente nulla. Noi ci siamo vergognati di questa legge sul vino bio perché tanti convenzionali, ma cantine sociali lavorano meglio. Assolutamente, però è una legge schifosa. Certo, l'hanno fatta per favorire il solito sistema.